la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Una famiglia benestante che vive nella Londra di fine anni 70, quella degli Smith. Una coppia felice di antiquari. Nel 1979 nasce Tom. La madre di Stoccolma lo porterà spesso in estate tra isole e paesaggi del sud della Svezia. Una vita felice quella di Tom Rob Smith, una laurea in letteratura inglese, poi la borsa di studio e gli studi di scrittura creativa alla Pervin University in Italia. Infine il lavoro come autore e sceneggiatore. Vive a Londra, bazzica l'ambiente della TV e del cinema, ma il suo sogno è scrivere una grande storia. Ci riuscirà con Bambino 44, che ha ispirato il film prodotto da Ridley Scott e diretto da Daniel Espinosa, che uscirà in autunno. Sarà quella la sua prima volta? In realtà, la prima volta di Tom Rob Smith arriverà più tardi, in un tranquillo pomeriggio londinese, come ci racconta lui stesso. Well, I think it's a difficult question, because I think clearly it has helped that I lived in Sweden and I have a Swedish mother, or an English father, and I know this landscape of the book very well. The farm is set in this remote part of Sweden. I know it. I can close my eyes and see it. È una domanda difficile. Sicuramente ha aiutato il fatto che io abbia vissuto in Svezia e che conoscessi quindi molto bene tutti i paesaggi e gli ambienti in cui il libro è ambientato, e che appunto mia madre fosse svedese. Il libro è ambientato nel sud della Svezia e io appunto questa zona la conosco molto molto bene. Tuttavia, quando ho scritto il mio romanzo Bambino 44, questo era ambientato nella Russia sovietica. Io, benché abbia viaggiato nella Russia, non potevo certo aver conosciuto la Russia di tipo sovietico. Certo, averla visitata mi ha aiutato, ma questo non significa che è fondamentale. Anzi, io credo che uno scrittore debba trarre moltissimo dalla propria immaginazione per riuscire a trasmettere quelle che sono i germi, i semi che vogliono convogliare. E voglio dire anche a tutte le persone là fuori che magari mi stanno ascoltando, che desiderano occuparsi di narrativa e scrivere, che non è necessario avere un'origine specifica per riuscire a parlare magari di un'ambientazione in Scandinavia, non è necessario avere del sangue scandinavo per riuscirci, quindi questo non ti deve bloccare se hai intenzione di percorrere questa strada, devi riuscire invece a trasmettere la tua immaginazione con le parole. E questo libro è comunque un libro molto diverso rispetto a Bambino 44, poiché le esperienze di cui narro traggono origine dalla mia vita. And rather than reading extensively to gather material to create a world, I had my life to draw upon. Ecco, a proposito di questo, l'incipit, diciamo, del libro è ispirato proprio a un fatto che le è accaduto e che riguarda sua mamma. Ci può raccontare se in qualche modo questo è stato un episodio non solo di crescita professionale, perché questo è un ottimo libro, ma anche un episodio di crescita appunto interiore, e quanto ci ha messo per rielaborarlo, cioè quando è avvenuto e quanto tempo è passato rispetto al momento in cui ha deciso di usarlo per raccontare una storia? Yeah, I mean, the event that we're referring to was 4 years ago when I was writing. Questo evento si è verificato 4 anni fa. Io stavo lavorando al mio libro Agente 6, e ricevo appunto una telefonata da mio padre. I miei genitori erano in pensione, si erano trasferiti in Svezia per trascorrere lì il loro periodo di pensionamento, in una zona molto remota, molto rurale, e da quello che sapevo si trovavano molto bene, a loro piaceva vivere lì. ad un certo punto appunto ricevo questa telefonata, mio padre mi dice: tua madre non sta bene, ho dovuto metterla in un istituto psichiatrico, devi assolutamente venire qui per venire a vedere la situazione. E questa telefonata per me è stata una sorpresa, un mattone che mi è caduto sulla testa, la prima che si è verificata quel giorno. Mi organizzo per partire, vado all'aeroporto, mentre sono per strada per andare all'aeroporto, ricevo una seconda telefonata, la telefonata di mia madre, che mi dice: guarda, io sono riuscita ad uscire dall'ospedale psichiatrico, me ne sono andata senza informare tuo padre e sto telefonando da una cabina telefonica. Quello che lui ti ha detto è una sfilza di lunghe bugie, io non sono matta. E questa è stata la seconda sorpresa che mi ha colto quel giorno. Mi ha detto che stava arrivando all'aeroporto di Heathrow e dunque io l'ho aspettata lì, e mi ha detto che mi avrebbe parlato di questa storia di reati criminali, di una cospirazione in cui mio padre sarebbe stato coinvolto e che appunto avrebbe fatto luce sulla realtà, sulla verità di quello che era accaduto. Dunque ci siamo recati presso il mio appartamento e l'ho ascoltata nel raccontare questa sua storia per 4 ore. Nel suo racconto appunto è emersa la sua versione degli eventi che si erano svolti in Svezia. Io fino a quel punto non avevo avuto alcuna esperienza di quelle che potevano essere situazioni collegabili a problemi mentali, psichiatrici, né tantomeno di reati criminali. Mi trovavo in una situazione dove nutrivo un profondo amore e affetto per entrambi i miei genitori, sia per mio padre che per mia madre, e in quella situazione dovevo decidere se uno dei miei genitori era matto e se l'altro invece aveva commesso dei reati terribili. Ed è proprio questo il concetto che io ho pensato di utilizzare come fondante per il mio romanzo, di un figlio che deve ascoltare una storia e sulla base di questa storia deve decidere e capire a chi dei due genitori deve credere. E mi ha colpito questo evento, poiché la tua domanda proprio si riferisce a questo, su due livelli. Personalmente appunto mi ero reso conto, come prima cosa, che il mio rapporto con i miei genitori, che era sempre stato sereno e buono, si era lentamente un po' non deteriorato, però un po' sciolto. Io mi ero allontanato, mi ero un po' staccato da loro. Avevo circa 20 anni, loro si erano trasferiti in Svezia e le nostre telefonate si erano un po' diradate. Magari ci sentivamo una volta ogni 2 settimane, una volta al mese. E il fatto di riuscire a ritornare in contatto con mia madre mi ha fatto quasi ritornare a quando ero piccola, alla mia infanzia, dove appunto ascoltavo mia madre che mi leggeva delle storie, delle favole. E il fatto che mi ritrovassi cresciuto, adulto, ad ascoltare nuovamente mia mamma che narrava queste storie mi ha riportato a quel periodo di tempo, perché ovviamente non sentivo più le storie di mia mamma da adolescente. E volevo che anche questo libro catturasse questo elemento di narrare, del racconto, e che potesse appunto trasmettere questo elemento così importante. E l'altro elemento che volevo anche trasmettere con il mio libro era quello del racconto di una storia, di una famiglia dove vi è una frattura, ma di come questa frattura si recupera e viene a guarire. Per concludere quella che è stata la storia di mia mamma, dopo averla ascoltata, io l'ho portata in ospedale, ho parlato con i medici, abbiamo visto che nel corso del ricovero ospedaliero lei, nel giro di 3-4 settimane, seguendo le cure, è molto migliorata. Quando è uscita dall'istituto abbiamo continuato le cure e questo ha fatto in modo che lei uscisse da questa situazione, e il vedere che lei finalmente era guarita mi ha fatto sentire bene, mi ha fatto sentire così bene da pensare che io avrei potuto raccontare questa storia. In questo modo avrei potuto trasmettere quella che era la mia versione della guarigione, il mio trattamento, la mia cura. That's when I started to think, I need to tell this story. I think it couldn't have been told if she wasn't, hadn't recovered. Mm. So that was the most important thing in terms of healing. And I think the book for me was my version of healing. It was sort of my treatment in a sense. La prima volta. Inverni lunghi, atmosfere nordiche e il senso di un mistero che coinvolge il lettore, perché ha a che fare con passaggi interiori che ognuno di noi, in maniera più o meno lieve, può aver incrociato nella vita. Il senso di una crescita che passa dalla paura di perdere qualcosa, fosse anche il ricordo che avevamo di noi stessi, della nostra famiglia, dei nostri affetti. Un oceano di silenzio scorre lento, senza centro né principio. Questo, in fondo, racconta Tom Rob Smith nelle sue storie. Questo, in particolare, racconta nel libro La casa, da pochi giorni in libreria, un romanzo in cui tutto viene messo in dubbio e tutto si trasforma in percorso di scoperta e crescita, come del resto è la vita. I see my childhood in two sections. There was up until the age of 12, where I was very happy. You know, I found the world very exciting. Effettivamente posso dire che la mia infanzia è come se sia divisa in due sezioni separate e distinte. Devo dire che fino all'età di 12 anni ho vissuto un'infanzia davvero molto felice. Ho trovato grandi elementi di felicità, di interesse, di emozione, di eccitazione, di gioia in tutto quello che facevo, e non penso che fino a quell'età ci fosse una parte della mia esperienza che non potessi considerare davvero straordinaria e meravigliosa. Dopodiché, invece, entrando quello che è il periodo critico dell'adolescenza, e credo che lo sia per molti ragazzi, non soltanto per me stesso, ci sono stati quei 3-4 anni dove invece sono come rientrato, mi sono ritirato in me stesso e ho vissuto in una maniera molto più ritirata, dove ho studiato molto, ho letto molto, soprattutto ero molto spesso in biblioteca, ho dedicato tantissimo tempo e attenzione alla didattica, ho studiato veramente molto, i libri mi piacevano tantissimo, e dopo questa fase sono tornato di nuovo in superficie, sono di nuovo emerso. Quindi potrei dire che la mia infanzia sia stata composta da due metà diverse l'una dall'altra. Tra l'altro i miei genitori si sono occupati di una azienda che aveva a che fare con l'antichità, avevano questa attività che ha avuto moltissimo successo, soprattutto in un determinato periodo che corrispondeva anche ad un periodo molto fiorente inglese. Hanno iniziato da zero, hanno avuto moltissimo successo, e poi negli anni 90 invece, con la concomitanza della crisi economica, questa attività è andata sempre peggio. Quindi fino ai miei 12 anni ho vissuto in una maniera davvero molto privilegiata, e poi ho avuto questa situazione un po' più difficile, che corrisponde proprio alle due metà della mia infanzia. Però devo dire che il periodo dei 14-15 anni che ho trascorso quasi in solitudine, con questo alone di tristezza, mi hanno aiutato a lavorare e ad impegnarmi nello studio, e quindi non ho rimpianti. It was just an unhappy sort of marriage of different things. And so, you know, it was two halves, I think, to my childhood. And in a strange way, I don't have even though I look back and think that boy aged 14, 15 was very lonely and sad, the good thing is it made me work very hard academically. So I don't have too many regrets, actually. Lei ha iniziato a lavorare come scrittore, però ha lavorato anche molto come autore. Era il suo sogno da ragazzino, appunto, o aveva qualche altro sogno? No, I think to start off with, what I loved and have always loved is story. And I think as a child you don't necessarily understand. Beh, al cuore di tutto, al centro di tutto c'è il mio amore per le storie, proprio io le ho sempre amate. Da bambino in realtà non capisci come questo amore possa poi trasformarsi in una vera e propria carriera, quindi questa consapevolezza non ce l'hai, però quando ero piccolo ho sempre amato il momento in cui prima di andare a letto mia mamma mi raccontava le favole, oppure più grandicello quando si raccontavano le favole e le storie attorno ai falò, quindi mi piaceva non tanto l'aspetto dell'essere l'ascoltatore di qualcuno che leggeva qualcosa, bensì l'aspetto di ascoltare qualcosa che veniva narrata, raccontata, e da questo credo che si possa trarre anche il mio profondo amore nei confronti delle fiabe, delle favole, proprio anche questo elemento di drammatizzazione, di recitazione che fa parte del racconto, e credo che anche il mio ultimo libro possa far trasparire questo amore. Ovviamente tutto questo io da bambino non lo sapevo in maniera consapevole, poi nessuno dei miei due genitori lavorava in ambito letterario e quindi non sapevo come poter trasformare questo amore in una cosa che avrei potuto fare per tutta la mia vita, perché effettivamente mi sarebbe piaciuto. E ho avuto una serie di incidenti che nel corso della mia vita mi hanno aiutato e che hanno permesso di scrivere per esempio dei drammi sia al liceo che all'università. Io ho scritto dei drammi che poi sono stati messi in scena e quando sono poi uscito dall'università, che ho finito gli studi per un altro caso, mentre stavo provando, accingendomi a scrivere il mio romanzo, ho ricevuto un'offerta di lavoro per una stazione televisiva e io non sapevo bene come e cosa avrei incontrato volta per volta, ma sapevo che il mio amore per le storie mi avrebbe condotto attraverso le varie fasi, le varie tappe, perché che tu lavori in ambito televisivo, cinematografico o nella letteratura, nella narrativa, quello che io sapevo era che volevo raccontare delle storie. I just always knew I wanted to be a writer and to tell stories. And I love storytelling, whether it's a film, whether it's television, whether it's books. I love the form of story. La prima volta termina qua. Volevo ringraziare Marina Spagnuolo, che ha tradotto l'intervista e la cui bellissima voce avete appena sentito, e Paolo Corleoni in regia. Noi invece ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 13.30. Potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive.